Bravo! Corso di lingua italiana e civiltà. Livello elementare e avanzato. Di Caterin Caterinov e Maria Clotilde Boriosi Caterinov. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. Diciannovesima unità. Calcio, che passione. Dialogo. Una domenica allo stadio. Ieri non ti ho visto allo stadio. Infatti non c'ero. E pensare che era una partita a cui tenevo tanto. Allora, spiegami perché non sei venuto. Semplice. Chi fa la mia professione, qualche volta lavora anche di domenica. È stata una partita di cui si parlerà molto. Guarda, è successo di tutto. Ho appunto comprato il giornale per leggere la cronaca. Credo che almeno la sintesi verrà trasmessa alla TV mercoledì sera. Beh, meno male. Intanto dimmi com'è andata. Ha vinto il Lecce? No, purtroppo ha vinto la Roma. Per 3-2. Ma la vittoria è stata contestata. E quale sarebbe il motivo della contestazione? Perché uno dei gol è stato segnato in modo scorretto. Cioè? Il portiere del Lecce è stato colpito a una gamba da un giocatore della Roma mentre stava per fare una parata in uscita. L'arbitro avrà fischiato il fallo, spero. Sì, ma non subito. Perciò i tifosi del Lecce hanno tentato di invadere il campo. Però è intervenuta in tempo la polizia. Se il gol è stato segnato in questo modo, andava annullato e basta. Infatti è stato annullato. Ma poi la Roma ne ha segnato un altro. Ormai si sa. Ogni volta che si gioca una partita dalla quale dipende lo scudetto, la promozione o la retrocessione, succedono incidenti fra i tifosi delle due squadre. Beh, gli incidenti vengono provocati da chi contesta il risultato. Vediamo se il giornale riporta tutti i fatti. Sì, leggi a voce alta, così sento anch'io. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Ieri non ti ho visto allo stadio. Infatti non c'ero. E pensare che era una partita a cui tenevo tanto. Allora spiegami perché non sei venuto. Semplice. Chi fa la mia professione, qualche volta lavora anche di domenica. È stata una partita di cui si parlerà molto. Guarda, è successo di tutto. Ho appunto comprato il giornale per leggere la cronaca. Credo che almeno la sintesi verrà trasmessa alla TV mercoledì sera. Beh, meno male. Intanto, dimmi com'è andata. Ha vinto il Lecce? No, purtroppo ha vinto la Roma, per 3-2, ma la vittoria è stata contestata. E quale sarebbe il motivo della contestazione? Perché uno dei gol è stato segnato in modo scorretto. Cioè? Il portiere del Lecce è stato colpito a una gamba da un giocatore della Roma mentre stava per fare una parata in uscita. L'arbitro avrà fischiato il fallo, spero. Sì, ma non subito. Perciò i tifosi del Lecce hanno tentato di invadere il campo. Però è intervenuta in tempo la polizia. Se il gol è stato segnato in questo modo, andava annullato e basta. Infatti è stato annullato, ma poi la Roma ne ha segnato un altro. Ormai si sa. Ogni volta che si gioca una partita dalla quale dipende lo scudetto, la promozione o la retrocessione, succedono incidenti fra i tifosi delle due squadre. Beh, gli incidenti vengono provocati da chi contesta il risultato. Vediamo se il giornale riporta tutti i fatti. Sì, leggi a voce alta, così sento anch'io. Vocaboli pagina 497. Tennis. Pallavolo. Ciclismo. Pallacanestro. Pattinaggio su ghiaccio. corsa, sci, ginnastica. Vocaboli pagina 498. Squadra di calcio, arbitro, tifosi. Vocaboli pagina 499. Macellaio, calzolaio, panettiere, pasticcere, vetraio, gelataio, salumiere, fruttivendolo, droghiere. 19ª unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 24. Ultime notizie. Ritrovato ieri a Rio de Janeiro il Raffaello sparito dalla Galleria degli Uffizi. Il prezioso dipinto, la Madonna del Cardellino, era stato rubato nel 1988 e da allora non se n'era avuta più notizia. Il quadro è stato ritrovato dall'Interpol nella casa del noto banchiere brasiliano Leopoldo González. Secondo le dichiarazioni del banchiere, il quadro sarebbe solo una copia perfetta dell'originale, eseguita da un pittore francese esperto in falsi. Le indagini proseguono. La scorsa notte, nel corso di un normale controllo, la polizia ha intimato l'ALT a una Fiat Tipo con a bordo 4 giovani. Il conducente, risultato poi in possesso di documenti falsi, anziché fermarsi ha accelerato, tentando di investire gli agenti. Dopo un breve inseguimento, la Tipo è stata bloccata in prossimità del casello di Firenze Sud. L'auto era stata rubata 2 giorni prima a Ferrara, come risulta dalla denuncia di furto sporta dal proprietario. Questa settimana schedina miliardaria. All'unico 13 vanno 2 miliardi e 800 milioni. La schedina è stata giocata a Piacenza in un bar del centro. Al momento non si conosce ancora il nome del fortunato vincitore. Esercizio 25. Al bar dopo la partita. Secondo me in questi ultimi anni il calcio italiano sta andando piuttosto male, sia a livello di nazionale che di serie A, B e C, non ti pare? Come fai a dirlo? Abbiamo vinto un campionato mondiale, la Coppa dei Campioni con il Milan, molte altre squadre sono arrivate in finale o semifinale di Coppa. Però la nazionale non vince la Coppa del Mondo dal 1982 in Spagna. Il Milan ha vinto a Tokyo la Coppa dei Campioni, ma in casa non ha vinto lo scudetto. Grandi squadre come la Juventus e il Napoli, per la prima volta da più di 20 anni, non si sono neppure classificate per le coppe europee. Sarà anche vero, ma il nostro campionato continua ad essere considerato il più bello del mondo. Abbiamo i migliori giocatori stranieri. L'ultima partita di finale di Coppa, fra l'Inter e la Roma, ha visto in campo ben 5 giocatori tedeschi campioni del mondo. Comunque, quali sarebbero, secondo te, i mali del nostro calcio? Prima di tutto, il continuo cambiare gli allenatori, dopo un paio di sconfitte in casa. Poi la vendita dei migliori giocatori da parte di alcune squadre come il Bologna, retrocesso in Serie B. Che dire poi della nazionale che nell'ultimo campionato del mondo ha perso in casa. Beh, ammetto che il tuo pessimismo non è completamente ingiustificato. Ma nonostante tutto, il calcio è e rimarrà lo spettacolo preferito nel nostro paese. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 511. Che nervi! Non ho potuto guardare la partita alla TV. Sono arrivati degli amici dei miei proprio quando stava per cominciare. Ah, non l'ho vista neppure io per intero. Però l'ho registrata. Se vuoi possiamo vederla adesso insieme. Magari. Allora se permetti telefono a casa per avvertire che non torno subito. Sì, intanto io accendo il videoregistratore. Ti porto qualcosa da bere? Una birra, grazie. Ecco, sediamoci. Senti, che ne dici di vedere subito il secondo tempo? Il primo è stato piuttosto noioso. Ah sì? Già, non è successo niente. È finita in parità. Nel secondo tempo invece il gioco è stato molto più vivace. Ecco, partiamo da qui. Ma no, non è possibile. Risultato sorpresa qui a San Siro, il Pescara sta battendo il Milan 1-0 con gol di Borgonovo. E quell'idiota del portiere che non è riuscito a parare un tiro così. Eh sì, ci è andata proprio male. A questo punto la nostra squadra può dire addio allo scudetto.